difficile, lo so, però è meteo. Musica allo stato puro, ti ripigli di sicuro. Sarebbe bello essere nuvole, avere un mondo da inseguire, fermarsi solo un attimo e se c'è noia scomparire. Programma col cuore di un bambino e il cammino di Gigi D'Agostino. Musica più lenta che pace che spera, veloce e più lenta, violenta e sincera. Musica più lenta che pace che spera, veloce e più lenta, violenta e sincera. Chi viaggia poco resterà piccino, il cammino di Gigi D'Agostino. Buongiorno. Ciao. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. È arrivato il folclorista, pista. Muovete. Ci sono anch'io, Dai, fai l'annuncio, lavora. Se volete mandare le vostre dediche, il numero di SMS è... Due punti. È. Dai. È. Ce la puoi fare. Vai, ci aiuto. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. La frequenza è codesta. C'è la musica che pesta. Ecco. Pesta, pesta, pesta, pesta, pesta, pesta. E qui la festa. Pesta, pesta. Pesta, pesta, pesta, pesta. E qui la festa. Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Io non voglio limitare le strade al mio universo interiore. E neanche al mio ascoltatore. Mi piace suonare un tormento contento e che il movimento sia lento e violento. Per farmi capire meglio, forse, il mio lento violento dovrei chiamarlo genere musicale. Ma secondo me non è così. Io lo chiamo movimento. Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. A ritmo lento, violento. Piscia un po' sta musica. Dai Gigi, fammi sentire sta bella cassa, vai, vai. Dove è andato il Gigi D'Agostino? Gigi! Dove è andato? Gigi! Dove è andato? Buh! Eh? Sì, vabbè. Dai! Dai, dai, dai, tempo! M2O. Se questa musica vuoi ascoltare su M2O ti devi sintonizzare. Da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Ginnastica mentale. passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Che dici? Ginnastica mentale. Vabbè, certo. Gigi D'Agostino vi aspetta sabato 30 settembre alla discoteca Disco Disco Music Club. Vado Ligure, Savona. Se volete delle informazioni... Se volete delle informazioni un po' più precise, potete andare sul mio sito www.gigidag.com. Pom pom parom parom pom. Pom pom pom parom parom pom. Pom pom pom. Entrate nel forum e c'è un topic dedicato a questa operazione. M2O, musica allo stato puro. D'Agostino. Di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Ti stiamo stimando che sta suonando Gigi D'Agostino? Il numero di telefono per mandare i vostri sms è il seguente: 333-64-67-662. 3, 3, 6, 4, 6, 7, 6, 6, 2, 3, 3, 3, 6, 4, 6, 7, 6, 6, 2. Ci fermiamo un attimo per prendere fiato. Il nostro cammino non è terminato. Si riparte. Riprendiamo il nostro cammino. Gigi D'Agostino! Gigi D'Agostino! Gigi D'Agostino! Musica, musica! Gigi D'Agostino! Gigi D'Agostino! Musica che unisce! Gigi D'Agostino! Musica, musica! Gigi D'Agostino! Gigi D'Agostino! Musica che unisce! Questo è il cammino di Gigi, D'Agostino. Si sente? Ma che? Ah, è la tana del sole. No? E sto scherzando. Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Se per te è la prima volta, lasciati andare. Unisciti a noi. Ti devi lasciar prendere dal passo. Dal passo, dal passo. E imboccare quel sentiero che ti indica. Che ti indica. Che ti indica. Ce la puoi fare. Il ritmo. Dove è andato a finire il vocalist? Fai un po' con l'info, lavora. Il Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano questo venerdì in Svizzera. Ah, se volete delle informazioni un po' più precise, potete andare sul mio sito www.gigidagostino.com oppure www.gigidag.com. Venerdì ci vediamo lì. Accento la radio su M2O. Ascoltare Gigi D'Agostino. Accento la radio su M2O. Gigi D'Agostino. La sua musica prende vita. Accento la radio su M2O. Ascoltare Gigi D'Agostino. Accento la radio su M2O. Gigi D'Agostino. La sua musica prende vita. Allunga la tua mano e vieni via con me. E se poi quello lì ce l'ha sudata, che schifo. Ti porterò lontano in un mondo che non c'è. Ce la puoi fare. Il cammino di Gigi D'Agostino è più sano. Se volete scrivermi, questo è il numeretto. Prendete il foglietto. Ecco qua, va. 3, 3, 3, 6, 4, 6, 7, 6, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Suoni e colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. grande famiglia danzante. Ogni giorno alle 18 il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Like a river that goes to the sea, this is the way that it has to be. Siete sintonizzati sulla frequenza della benevolenza. M2O, musica allo stato puro. Mi piace passeggiare ovunque, mi piace pasticciare con i miei colori anche fuori dal foglio. Mi piace guardare altrove,

meglio difendermi da tutto questo. Tutto questo. Tutto questo. Tutto questo. Mi lascerò travolgere anche dalla sensazione che mi devasterà il giorno che tu te ne andrai. Riesce ad amare solo chi non vuole difendersi dall'amore. Forse non capirlo. Forse non capirlo. Per me amore vuol dire aver incontrato te. M2O. Musica allo stato puro. Sabato sera, ore 22:30. Il Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello sabato 30 settembre alla discoteca Disco Disco Music Club. Vado Ligure. Vado Ligure. Savona. Cominciamo ad andare? Ah, e cazzemma. No, era per mangiare tutti insieme, no? Ma dai. Ma no, perché voglio essere preciso. Mi ricordo una volta quando ero piccolino. Sì. Da tantissimi anni fa. Mi ricordo una volta. Muovete. No, niente, volevo dirlo. D'Agostino. La differenza la fa chi balla. Chi non si muove è una palla. Cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarri. È vero, è vero. È vero, è vero. È vero, è vero. È vero, è vero. Cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Ah,

A Beci e alla sua foca loca auguriamo un compleanno fantastico e le dedichiamo Pigia Pigia. Giusy, Anna ed Endo. Pigia Pigia, bello! Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Rimango sulla strada che non so dove, però legge mi porta su, non torno più. Perché lei chiama me, perché anche lei non sa dove. Rimango sulla strada che non so dove, però lei c'è, mi porta su. Gigi D'Agostino vi saluta! Tanto, tanto!